Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, già dare una definizione a questo termine è un'impresa impossibile ai più, noi compresi che mediamente ci occupiamo di questi argomenti ogni giorno. E in questi giorni, in concomitanza con l'approvazione del decreto mille proroghe, si è tornato a parlare di anatocismo. Chi si è imbattuto in questo problema sa di cosa stiamo parlando, forse ai più non sarà successo o magari non lo sanno neanche. In termini generali, di cosa stiamo parlando appunto? Parliamo intanto di un conto corrente che viaggia con uno scoperto e le modalità con cui le banche applicano i tassi di interesse. Attenzione a non confondere questo tema con la questione della commissione di massimo scoperto abolita dalle misure anticrisi nel 2009, ma era impostata diversamente dalle banche, anche se le due situazioni sono delle parenti molto strette. L'anatocismo descrive gli interessi derivanti dalla capitalizzazione di altri interessi, una pratica bancaria molto diffusa negli anni 90 che ha visto impegnati in questi anni molti correntisti nella richiesta di restituzione dei versamenti effettuati, dato che a partire dal 99 la Cassazione è intervenuta più volte su questo argomento e proprio nel 99 ha dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche, facendo così proliferare cause su cause contro le banche. In che senso è intervenuto ultimamente il decreto mille proroghe? Sui termini di prescrizione, vanificando la possibilità di chiedere la restituzione degli interessi anatocistici se sono passati più di 10 anni dal loro versamento. Insomma, già sudo solo alla spiegazione, al tentativo appunto di interpretazione dell'evoluzione della vicenda. Noi allora stamattina tenteremo di spiegarvi cosa comporta questa novità, che qualcuno minimizza, qualcuno dice che finalmente si dà certezza dell'esercizio di un diritto, le associazioni dei consumatori invece sono abbastanza infuriate, anche se qualcuna sostiene che la restituzione si possa ancora chiedere. E allora, ci si può rivalere contro una banca se si è nella convinzione di aver subito interessi anatocistici in passato, come lo si dimostra? Nicola Borsi, Plus 24 del Sole 24 ore, bentornato, ciao, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E bentornato anche Salva Danaio, al legale dell'Associazione dei Consumatori, Conf Consumatori, l'avvocato Emilio Graziusa. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi e bentrovati. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, ci potete anche scrivere al 349 238 66 66 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa, un'occhiata ai mercati finanziari prima di partire. La borsa oggi è negativa, ve lo abbiamo già anticipato nel giornale radio, sta pesando l'andamento del prezzo del petrolio, qualcuno addirittura ormai si avventura a parlare liberamente di shock petrolifero in arrivo che potrebbe compromettere una già precaria ripresa economica a livello globale. L'effetto sui prezzi dei carburanti ve l'abbiamo già raccontato, il rally delle materie prime sta coinvolgendo ancora perché si cerca anche il rifugio. L'oro, il prezzo dell'oro ha toccato ieri l'ennesimo nuovo record assoluto, $1,432 l'oncia. I cali delle borse europee sono tutti superiori al punto percentuale, con l'eccezione di Londra che è -0,8%, Milano -1,29% perché pesa il calo di tutte le banche. Pesa soprattutto il calo di Fiat, dopo i dati sulle matricolazioni di ieri sera per il titolo del lingotto, -2,79%, Monte dei Paschi perde il 2,47%, Intesa -2%, Buzzi -2%, Banco Popolare -1,8%, Finmeccanica -1,8%, Saipem -1,78%. Segno più su pochi titoli, Telecom +0,7%, Bulgari Correa da ieri, già ieri era trainato dai conti di Luxottica, oggi +0,26%, Terna +0,06%. Abbiamo finito i titoli con il segno più davanti. Euro su dollaro a 1,38,30, il petrolio come vi dicevo era intorno ai $100 a New York, il Brent a Londra $115 e insomma probabilmente con questo scenario dovremo convivere ancora per qualche mese. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Oggi vi tentiamo di spiegarvi in qualche maniera qual è l'evoluzione sulla questione dell'anatocismo sui conti bancari. Il mille proroghe condona l'anatocismo bancario e capovolge una sentenza delle sezioni unite della Cassazione che solo a inizio dicembre 2010 avevano dato l'ennesimo colpo agli interessi su interessi, stabilendo che si poteva far causa alle banche per la restituzione degli interessi illegittimi entro 10 anni dalla chiusura del conto. L'anatocismo è la pratica di far pagare doppiamente gli interessi sui passivi del conto corrente, calcolando appunto gli interessi sugli interessi. Una pratica illegittima e vietata dal 2000 e sulla quale i cittadini hanno diritto a richiedere il rimborso. ma il testo contenuto nel maxi emendamento capovolge la situazione. Il comma del milleproroghe taglia infatti i termini della scadenza per il ricorso, anticipando i termini della prescrizione. Così facendo, il termine di 10 anni non parte più dalla data di chiusura del conto, ma dal giorno di registrazione contabile dell'addebito illegittimo. Così, molti di quanti negli anni scorsi hanno pagato agli istituti interessi non dovuti dovranno rinunciare al rimborso. Sono salvi invece coloro che hanno già in tasca il rimborso. Il compromesso ha deluso molti e le associazioni dei consumatori sono già sul piede di guerra. E infatti, come sta succedendo in casa Confconsumatori, ma anche in casa di altre organizzazioni. Volevo cominciare subito con l'avvocato Emilio Grazioso, legale della Confconsumatori. Avvocato, se non ho capito male, lei è anche responsabile del coordinamento istituito fra la Confconsumatori, Federazione Provinciale di Brindisi, e l'Associazione Nazionale dalla Parte del Consumatore per seguire specificatamente questa vicenda, ho capito male? No, è un coordinamento che abbiamo fatto a livello locale per dare maggior impulso e maggior forza all'attività appunto dell'associazione dei consumatori, almeno di queste due che hanno finalità analoghe, e a livello locale hanno creato questa sinergia già lo scorso anno, a marzo dell'anno scorso abbiamo formalizzato questo coordinamento e stiamo portando avanti una serie di battaglie a livello legale insieme. Speriamo anche perché, che questa esperienza si possa evolvere anche a livello nazionale, perché abbiamo notato che in molti casi l'unione fa anche la forza, perché siamo stati incisivi su alcune problematiche importanti a livello locale, e ovviamente una cosa è andare esclusivamente con l'unica sigla dell'associazione dei consumatori, una cosa invece come federazione, come coordinamento a seconda della veste che vogliamo dare, ha sicuramente anche un impatto anche un attimino diverso, oltre che a dare un insieme di professionalità che si possono sedere a un tavolo e trovare delle strategie comuni. Sì, anche perché per affrontare questo argomento ci vuole veramente una professionalità estremamente specializzata, perché altrimenti non se ne viene a capo. Un'altra cosa che le voglio chiedere, avvocato, è: avete seguito, a prescindere dalla novità apportata dal decreto mille proroghe che ricambia di nuovo le carte in tavola, avete seguito in questi ultimi anni molti, dal punto di vista legale, consumatori che hanno chiesto la restituzione di interessi versati secondo la pratica anatocistica? Beh sì, con quanto tasso di successo anche? Allora, il problema nasce alla fine degli anni 90, tutto sommato, intorno al 99, quando si sono avute le prime sentenze a riguardo, non soltanto dei tribunali di merito, ma soprattutto le due sentenze della Cassazione che hanno aperto il varco appunto a questo filone giurisprudenziale. Il livello di successo è stato molto alto, nel senso che la maggior parte dei giudizi si è conclusa positivamente. Ovviamente io parlo per la mia associazione, dove c'è una valutazione a monte se vi sono degli estremi o meno per intraprendere un'azione per il recupero di queste somme, in quanto il primo passo da fare è capire se vi sono tutta la documentazione, se vi è tutta la documentazione, analizzare la documentazione, dopodiché eventualmente far fare una perizia e capire di che cifre stiamo parlando, se ci sono gli estremi, quindi margini per un recupero che possa soddisfare il singolo utente, il singolo correntista, e quindi poi procedere con la pratica. Quindi c'è già tutta una sua gestazione al monte, almeno secondo il nostro modo di operare. No, ha fatto bene a ricordarlo, perché guardi, questo già era un tema del quale ci riproponevamo di parlare con Nicola Borsi, perché è un po' come i casi di risparmio tradito, no? Uno pensa di aver subito, che ne so, dal governo argentino ovviamente la sottrazione in debita del denaro con la questione dei tango bond, e siccome magari non sono soddisfatti di quanto il governo argentino in questi anni ha proposto di restituzione con tutte le modalità che abbiamo già tante volte raccontato a Salvadanai, allora credono che la strada inevitabile da percorrere a questo momento sia la causa contro la banca, ma non è sempre detto che si abbia successo, quindi bisogna fare un'attenta valutazione di tutti i presupposti eventualmente dell'azione legale, quindi è fatto bene ricordarlo. Tenendo conto che poi l'azione legale è l'estrema ratio, nel senso che si spera prima di riuscire a trovare un accordo con gli istituti di credito, se vi sono ovviamente gli estremi. Questo è l'aspetto fondamentale, in quanto in molti casi chiedono la possibilità di inoltrare azioni per il rimborso di interessi anatocistici, dove obiettivamente non c'è l'anatocismo, perché poi ricordiamolo, soltanto per alcuni contratti, alcune tipologie contrattuali fino a una certa data si ha questa disparità di trattamento tra capitalizzazione annuale per l'interesse attivo, capitalizzazione trimestrale per l'interesse passivo, e poi anche noi siamo molto attenti ad analizzare, perché l'anatocismo è l'aspetto, diciamo, con maggior appeal a livello mediatico, ma in realtà quando si impugna un conto corrente, quando si deve fare un'azione per un conto corrente, ci sono una serie di voci che poi danno luogo, diciamo così, alla concretizzazione della restituzione delle somme, che non sono solo l'anatocismo, ci sono altri elementi che incidono fortemente anche a livello economico, tipo l'interesse uso piazza che è stato dichiarato illegittimo. Tipo non ho capito, avvocato, che cosa è stato dichiarato illegittimo? L'interesse applicato, il cosiddetto interesse uso piazza, vale a dire quando le banche, per tutta una serie di tipologie contrattuali fino a buona parte degli anni 90, prevedevano che l'interesse passivo non veniva sottoscritto e individuato già nel contratto, ma si faceva un riferimento generico all'uso applicato sulla piazza dagli istituti di credito. Questa prassi è stata dichiarata illegittima perché ovviamente faceva schizzare notevolmente il tasso di interesse passivo. E anche quella è una voce che incide fortemente, in quanto dai nostri calcoli e dai calcoli che sono stati poi confermati in sede di tribunale, questa è una voce che incide fortemente per la restituzione del mal tolto che riesce ad ottenere, sì, il cittadino. Avvocato, io la devo interrompere perché devo fare già la prima pausa. Adesso magari proviamo anche a ripristinare il contatto telefonico con lei, perché abbiamo qualche difficoltà, ogni tanto la perdiamo e questo ci fa perdere anche molta sostanza ed è un peccato. Quindi faccio scaldare i motori a Nicola Borsi con le considerazioni che ha pronte, vedo già anche molti ascoltatori in attesa. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, tra pochissimo. Allora, eccoci di nuovo in diretta questa mattina con Nicola Borsi del Sole 24 Ore, l'avvocato Emilio Graziuso della Confconsumatori, per parlare dell'anatocismo, per parlare dell'intervento che su questo tema ha fatto il decreto mille proroghe nei giorni scorsi, e per parlare appunto di tutti quei consumatori, di quei clienti di banche, molte imprese anche ce ne stanno già scrivendo, qualcuna ci sta già scrivendo, che negli anni passati hanno versato interessi anatocistici sul loro rapporto di conto corrente. Sono praticamente interessi applicati su altri interessi, una pratica che la Cassazione ha detto non deve essere proseguita, ma aprendo proprio la strada a molti correntisti la possibilità di avviare azioni legali per chiedere la restituzione di questo denaro. Però il mille proroghe appunto avrebbe un po' cambiato i termini della questione. E allora, Nicola Borsi, come è intervenuto il mille proroghe, dopo aver spiegato un po' le basi della questione in precedenza con l'avvocato Graziuso, non ha sicuramente semplificato le cose il governo? Ma diciamo che le ha semplificate, ma le ha semplificate per le banche, nel senso che riducendo il termine della prescrizione, cioè introducendo un termine che scatta non dalla chiusura del rapporto di conto corrente ma dal momento in cui sono stati versati gli interessi per coprire quanto dovuto alla banca, ovviamente i termini si riducono notevolmente, perché se questi interessi sono stati versati più di 10 anni fa non si possono più andare a recuperare. Io però volevo sottolineare due passaggi. Sì. Il primo è che questa questione dell'anatocismo è tra le più dibattute in assoluto tra i risparmiatori e le banche, e anche sulla rete. Google dà 223.000 risultati alla domanda su anatocismo, e anatocismo più sentenza 83.000, quindi è un mare magnum. La seconda questione è che la giurisprudenza negli ultimi 12 anni è uniformemente dalla parte dei risparmiatori. Però non è sempre stato così. La prima sentenza sull'articolo 1283 del Codice Civile, che regola tutta la vicenda, è del 1981, e dall'81 al 99 se ne contarono 9 che erano sostanzialmente a favore delle banche. Questo per dire che cosa? Per dire che bisogna fare attenzione, perché a meno che la posta in gioco sia effettivamente una posta veramente consistente in termini economici, imbarcarsi in vertenze legali che possono durare anni e che hanno dei costi notevoli, senza avere dall'inizio la certezza positivo del risultato, è un rischio. Quindi secondo me conviene farlo per coloro che hanno effettivamente una posta in gioco molto alta. Penso alle imprese che hanno degli affidamenti costanti di conto corrente sulle quali sì vanno a pagare forti interessi, e se c'è l'anatocismo ovviamente hanno un interesse a recuperarli, ma se si tratta di poche decine o anche di qualche centinaia di euro, il rischio è di pagare spese legali che sono molto superiori al beneficio. E infatti l'avvocato Graziuso prima in maniera con grande buonsenso suggeriva prima di imbarcarsi nell'azione legale, fate fare una perizia della vostra situazione pregressa. Questo significa che poi ecco, si dia ragione a chi la ragione non l'ha, però bisogna fare attenzione ai costi benefici di una vertenza. Anche perché poi non tutti magari vanno dall'associazione dei consumatori che ha un determinato costo, cioè chi si rivolge ovviamente anche a, come dire, al mondo legale. Perché c'è un enorme commercio, diciamo, anche da parte degli studi legali. La consulenza la paghi comunque a prescindere dal risultato. Cominciamo a sentire le domande degli ascoltatori. Allora, Luigi da Brescia, buongiorno, è proprio una persona che di legali ne ha cambiati tanti in questi buongiorno. Anni. Buongiorno a tutti. Io ho una piccola azienda meccanica da circa 20 anni e dal 2006 che ho iniziato questa parte, capivo, non sapevo neanche cosa fosse la sofferenza con le banche, poi ho scoperto le mie spese. E un avvocato mi ha fatto scoprire l'anatocismo ed è il quarto legale che cambio, perché il primo mi si presenta un CTP da 380.000 euro, la banca, il tribunale di Brescia chiede al CTU della banca, esce con 34.000. Oggi mi dico, è pur mai possibile che un CTP, esperto in materia, possa fare queste sparate? Che cos'è un CTP? Consulente tecnico di parte. Ormai mi sono fatto un'esperienza anch'io. Anche se la sento, Luigi, la sento. L'ultimo avvocato della zona, dico, di Brescia così, mi dice, guarda che l'anatocismo rispetto all'usura è una piccola fettina della torta. Scusi, come mai? È perché è così. A questo punto succede che dei 34.000 di anatocismo che il Tribunale di Brescia certifica tramite il CTU, dice no, ce ne sono 150 di usura. Adesso voglio capire, siccome tra l'altro io imballo quattro banche, alla fine erano quasi 500.000 euro, mi sto rischiando di portare a casa neanche 5.000 euro. Perché voglio dire, l'usura è più alta dell'anatocismo o è viceversa il discorso? Perché a questo punto ho quattro studi di cui ho tutti abbandonati perché uno dice una cosa diversa dall'altra. Allora voglio capire con l'avvocato, con l'avvocato che segue la Consob esercenti, la sua opinione, il suo giudizio. Consumatori, sì, Luigi, certo, tanto come dire, sentire un altro parere sicuramente non fa male. Prima voleva intervenire Nicola Borsi. Mi sembra un classico caso di, come dire, commercio fatto su questioni legali, anche sulla pelle del cliente legale finale, però sono vertenze completamente diverse, quelle che riguardano la determinazione del tasso di usura e quelle che riguardano l'anatocismo. Cioè, la determinazione del tasso di usura impatta sulla misura dell'anatocismo nella misura in cui fosse stato eventualmente utilizzato un tasso usurario, cioè previsto, superiore alle soglie previste dalla legge sul calcolo dell'anatocismo. Però non so se questo sia il caso, io lascerei la parola all'avvocato. Avvocato Graziuso, che cosa ci suggerisce il caso di Luigi da Brescia anche in termini di intervento? Ecco, è anche caduto il nostro legale, adesso lo recuperiamo al volo, stamattina abbiamo qualche difficoltà con questo collegamento telefonico, credo che tra l'altro abbiamo tirato fuori l'avvocato Graziuso da un'udienza che aveva questa mattina, ma lui, siccome ci tiene molto ad affrontare questo argomento, appunto di mettere a disposizione anche la sua esperienza dei nostri ascoltatori, ha voluto essere a Salva Danaio. Sentiamo un po' se lo abbiamo ripescato. Sì, no, perché mi interessava capire. Avvocato, sì. L'abbiamo ripescato. Ha sentito il caso dell'ascoltatore di Brescia, dell'imprenditore di Brescia? Sì, l'ho sentito, però ritorniamo al discorso che ho fatto in partenza, nel senso che purtroppo per dare una risposta bisognerebbe vedere la documentazione, cioè peccheremmo di superficialità a dare una risposta sulla base di quei dati che ci ha fornito. Sì. L'unica cosa che volevo specificare è questa, che quando si parla di anatocismo, ribadisco, cioè è soltanto una delle poste in gioco. Quindi a me sembra giusto il discorso che mi sembra di aver capito abbia fatto uno dei legali, nel senso di dire guarda che non dobbiamo puntare solo sull'anatocismo, ma dobbiamo impugnare il contratto anche per altre voci, tra cui anche il tasso soglia e quindi usura. Nel senso che l'usura non è soltanto il discorso penale, quindi il reato di usura, ma c'è anche una forma di usura civile che si è spesso riscontrata anche nei contratti di natura bancaria e di conto corrente. Allora, per fare questo però bisogna capire, e questo dovrebbe averlo fatto il consulente al quale si è rivolto il nostro ascoltatore, che tipo di tasso è stato applicato e se rientra o meno nelle soglie stabilite per il tasso soglia antiusura. Tra l'altro adesso io vorrei anche, siccome mi rendo anche conto perfettamente che il tema è complesso, probabilmente lo conoscono molto bene come l'ascoltatore di Brescia che è incappato in una situazione di questo tipo, ma molti altri non avranno ancora capito fin da ora, fino a questo momento, di che cosa stiamo parlando, magari se riusciamo, Nicola, a mettere in piedi un piccolo esempio per capire proprio qual è, come dire, la situazione, nel senso quanto indietro nel tempo devo andare intanto, se ho anche un conto corrente ancora aperto, posso adesso risalire alla sua gestione, al calcolo degli interessi sullo scoperto di conto di 15 anni fa? No, in base all'ultimo decreto mille proroghe posso risalire indietro fino a 10 anni in funzione però dell'ultimo pagamento per coprire lo scoperto, nel senso, cioè, che se io ho il dubbio che negli anni 90 avevo un conto corrente, se gli scoperti sono stati saldati prima del 2001, a questo punto teoricamente non si può più fare nulla. Secondo quello che ha stabilito il mille proroghe. Se gli scoperti fossero invece stati saldati successivamente, sì, da quello che deduco io. Diversa era la situazione precedente, nel senso che prima si poteva risalire indietro di 10 anni in funzione della chiusura del conto, e quindi c'era molto più tempo a disposizione. Ovvio, certo. Allora andiamo ad un altro ascoltatore, che è Riccardo da Pescara. Riccardo. Sì, buongiorno. Dunque io volevo porre questo quesito. Per quanto riguarda il modo in cui opera Equitalia, no? Arriva un pagamento, non so, di un pagamento scaduto non fatto all'Agenzia delle Entrate con tutti gli interessi. Questa cartella passa in carico ad Equitalia, Equitalia su questa cartella applica gli altri interessi. Mm. Ecco, la domanda è questa: non è anche questa una forma di anatocismo? Ossia, Equitalia, nel momento in cui va a calcolare i suoi interessi, prende in considerazione anche gli interessi già maturati, quindi c'è interesse su interesse. Allora Riccardo, vabbè, Equitalia non è una banca, però lui dice, insomma, fa questo parallelismo. Nicola, che ne pensi? Nicola Borsi. Allora io non mi pronuncio sulla questione di Equitalia per un motivo molto semplice: in questo caso non parliamo di un conto corrente ma di un titolo di debito, e poi la questione riguarda non soltanto la produzione di interessi su interessi, che può anche essere legittima in alcuni casi, ma la capitalizzazione di questi interessi, cioè bisogna capire se Equitalia li capitalizza e in quale forma li capitalizza, se in forma annuale, in forma trimestrale. Io su questo rimanderei all'avvocato, sinceramente. Grazioso, che ne pensa anche, forse sì. Allora, innanzitutto, vabbè, ovviamente non c'entra il discorso che abbiamo fatto sinora, né tantomeno il mille proroghe, per il caso che ha affrontato il nostro telespettatore. Ovviamente il problema principale è questo: con le modalità di calcolo degli interessi di Equitalia si aprirebbe un vacco notevole, perché è una modalità di calcolo un tantino differente, che per una serie di anni è stata regolamentata da una serie di decreti che hanno stabilito un tasso differente rispetto a quelli a cui siamo abituati a ragionare sulla base di Banca Italia, eccetera. Quindi in linea di principio potrebbe essere valido il discorso che ha fatto il nostro ascoltatore. In linea pratica però a riguardo non si riscontrano né precedenti giurisprudenziali che hanno dato ragione al singolo in questo caso contribuente, perché quando si parla di Equitalia si parla di contribuente, né tantomeno sono state accolte, a quanto consta almeno, questi rilievi che ha fatto l'ascoltatore, che non sono singoli, isolati, in quanto già in passato se ne è parlato anche in trasmissioni specifiche tipo Mi manda dei tre. Cioè, sostanzialmente fino ad oggi nessun tribunale ha dato ragione a chi ha chiesto il rimborso di interessi che riteneva non dovuti sul pagamento di imposte o versamenti cartelle esattoriali non saldate. Assolutamente, infatti anche a me non costa nessun precedente in materia. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi, per capire un po' di più rispetto a quanto ha stabilito il decreto mille proroghe sulla pratica anatocistica e sulla possibilità per molti consumatori di richiedere interessi non legittimamente versati appunto in passato alla banca che capitalizzava gli interessi sugli interessi. Chissà se l'ho spiegata bene, qualche volta mi confondo anch'io, mi sento, ma non sono in grado di dire se riesco a spiegare bene le cose. Comunque ho due bravissimi professionisti questa mattina con me, a tra poco. Mi sono un po' mentalmente incaponita sulla volontà di fare un esempio. Tornando indietro di 15 anni, Nicola, ammettendo che io avevo uno scoperto di conto di 100.000 lire, perché ovviamente gli euro non ce l'avevamo, e su quelle 100.000 lire appunto la banca mi chiedeva 5 lire di interessi. Questo anatocismo significa che praticamente nel trimestre la banca mi ricalcolava interessi su 105 di scoperto di conto, perché diciamo avevo già 5 lire. Ogni trimestre la banca aggiungeva l'interesse che si era formato al capitale precedente e ricalcolava un interesse su quel nuovo montante, cioè sulla somma di capitale più interessi. Quindi si creavano sostanzialmente interessi su interessi passivi. Nel 99 la Cassazione ha detto che questa cosa non andava bene. Nel 2000 è intervenuto una delibera del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 9 febbraio. C'è stata un'altra sentenza della Cassazione nel 2004. L'ultima sentenza della Cassazione è del 2 dicembre 2010, la sentenza 24.418. E guarda caso cosa succede? Il decreto mille proroghe, a fronte di questa giurisprudenza che ormai era negli ultimi 12 anni a livello di Cassazione abbastanza consolidata a favore dei risparmiatori o comunque dei clienti bancari, perché in questo caso sono debitori, il decreto mille proroghe cambia i termini di prescrizione, cioè dice bisogna introdurre una data dalla quale non si può più andare a richiedere indietro quanto è stato versato. E questa data non è la chiusura del conto corrente, ma il versamento. L'ultimo versamento a pagamento degli interessi. Sugli interessi. Ora, siccome la decorrenza è di 10 anni, diciamo che dal 28 di febbraio del 2001 negli anni precedenti non si potrebbe più andare a richiedere nulla. Avvocato Graziuso, insomma, quanti a questo punto suoi clienti o quelli della sua associazione sono scoraggiati dal continuare a, come dire, fare battaglia per la richiesta di questi interessi versati in passato? Allora, io vorrei fare una precisazione a ciò che ha detto il dottor Bozzi. Allora, nel senso che giustamente ha detto potrebbe perché effettivamente non è detto che l'impostazione data dal milleproroghe, che a primo impatto può sembrare deleteria, però noi stiamo cercando di individuare degli anticorpi a questa norma attraverso delle norme di carattere civilistico puro, vale a dire facendo riferimento alle norme contenute nel codice civile, in virtù del quale stiamo cercando di neutralizzare gli effetti deleteri di questa norma, che è una norma di carattere politico, non è certo di carattere giuridico, perché a livello giuridico la sentenza della Cassazione del 2 dicembre a cui faceva prima cenno il dottor Bozzi ha di in tutte le sue sfaccettature la matassa e quindi ha fatto chiarezza sul tutto. Ora, seguendo quell'impostazione proprio data dalla sentenza della Cassazione, letta alla luce del codice civile, stiamo individuando una serie di strategie processuali da mettere in campo almeno per il contenzioso in corso. Perché il problema serio quello in corso potrebbe decadere in virtù della nuova normativa intervenuta. Più che decadere potremmo trovarci di fronte ad una situazione imprevista, nel senso che nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a giudizi, c'è stata già la perizia del Tribunale che ha stabilito un credito a favore del correntista. Credito dato alla luce dei criteri adottati dalla CTU, a cui faceva cenno prima l'ascoltatore. Il consulente tecnico CTU, di parte. Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, al quale il giudice aveva posto dei quesiti alla luce della giurisprudenza della Cassazione. Quindi si è trovato una voce di credito che verrebbe a essere travolta da questo benedetto milleproroghe. Ora, è quello la nostra preoccupazione maggiore, perché mentre per coloro che devono ancora promuovere un giudizio si può palesare questo rischio, ovviamente per quelli che il giudizio in corso a monte non potevano mai stare a prevedere una situazione del genere. E perché non c'è mai certezza della legge, il principio è questo, non possiamo mai fare niente, ovvio. La certezza del diritto è uno dei nostri presupposti fondamentali, però in questo caso è chiaro che è stato un intervento a gamba tesa, lo definirei io, del sistema politico di fronte ad una debacle totale, di fronte a tutti i tribunali d'Italia, avuta in sede giudiziale, sistema giudiziario, come effettivamente si è detto, dove c'erano i presupposti dal 99 ad oggi, vale a dire oltre 12 anni, ha dato ragione al correntista. D'altronde ci sono delle lobby molto forti, quella bancaria molto forte in Parlamento, come altre molto importanti, per cui hanno portato a casa un risultato che chiedevano. Vi faccio sentire un altro caso di un altro ascoltatore e poi ovviamente prima di concludere un vademecum per tutti i nostri ascoltatori per capire se ritengono di avere delle situazioni in sospeso di questo tipo, se vale la pena avviare l'azione legale contro la banca o no. Cosimo da Lecce, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un imprenditore lavoro da 20 anni in un'impresa nel ramo alimentare. Ho avuto un rapporto bancario con due istituti, Banco di Roma, ex Banco di Roma, e Unicredit Banca, Rolo Banca. Dal 91 fino al 2007 nel caso del Rolo Banca, e fino al 2009 con Banca di Roma, ex Banco di Roma, che si sono unificate. Avevo un rapporto con una persona di credito di 30.000 all'incirca fra una, sia una che l'altra. Nel momento, nel periodo di crisi, diciamo, da questi situazione e questa parte, chiaramente sono venuto a trovare una situazione di scoperto. E di scoperto oltre l'affidamento, Cosimo? Sì, sì, un affidamento. E in questo caso loro hanno voluto il rientro subito, non mi hanno dato altre possibilità, cioè nel momento in cui avevo bisogno della banca, in effetti mi hanno chiuso il conto, sia uno che l'altro. Le hanno chiuso il conto o l'affidamento? L'affidamento, e chiaramente mi hanno mandato con la società di recupero crediti della stessa banca il rientro immediato dell'intera somma. Io ho notato che in questi anni loro hanno attuato il solito discorso trimestrale con il rientro nell'ambito dell'anatocismo, sicuramente. E quindi con la nuova norma, non so, con il maxi mille proroghe, non so se io rientrerei anche nell'ambito dei 10 anni all'indietro del 2000 oppure dovrei ricorrere. Cosimo, allora guardi, noi tra l'altro abbiamo 50 secondi di tempo prima di chiudere, vado subito all'avvocato Grazioso, anche qua chiaramente così dare un giudizio a spanne rispetto ad una situazione, tra l'altro sentivo che era anche molto emozionato il nostro ascoltatore, non è possibile. Detto questo, date anche gli importi che ha così citato l'ascoltatore, secondo lei gli varrebbe la pena fare una perizia per verificare, andando indietro un po' nel tempo, se è stato sottoposto a pratica anatocistica e quindi chiedere un rimborso? Beh, sicuramente, essendo un imprenditore il nostro radioascoltatore, e gli converrebbe chiedere una perizia al suo stesso commercialista che l'ha seguito nel corso degli anni, se è pratico appunto di questo genere di questioni, in modo tale da non avere un grosso esborso economico. La perizia è l'aspetto fondamentale. Sì. Oggi come oggi il consiglio, quando si approccia a una perizia, è far fare i conteggi sulla base di tutte e due i criteri, vale a dire quelli sanciti dalla Cassazione e sia è quello alla luce del mille proroghe, perché la situazione non bisogna creare allarmismi. Certo, è stato un colpo bassissimo dato dal potere politico ai correntisti. Abbiamo capito la sua idea. Ancora non tutto è perduto, quindi dobbiamo vedere che evoluzione prende in sede di giurisprudenza questa questione. Infatti, tra l'altro, visto che l'ascoltatore è di Lecce, gli consiglio magari di fiarsi una passeggiata a Brindisi e venirsi a fare una chiacchierata con lei, prendersi un appuntamento, visto che comunque almeno siete nella stessa regione. Allora, le parole della previdenza. INPS, per saperne di più. Oggi l'INPS ci spiega che cos'è l'indennità mensile di frequenza. L'indennità mensile di frequenza è un assegno dell'INPS a favore degli invalidi civili minori per aiutare l'inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate. È una forma di provvidenza economica istituita dalla legge numero 289 del 1990. L'indennità spetta ai minori di 18 anni, cittadini italiani o dell'Unione Europea, residenti in Italia, che siano stati riconosciuti come minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore e che dispongano di un reddito annuo personale non superiore a 4.408,95 euro. Requisito fondamentale per averla è la frequenza continua o periodica di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido. Saluto l'avvocato Angelo Riva, delegazione ADUSBEF di Brescia, che ci scrive solo per comunicare che la norma del decreto mille proroghe nasconde profili di incostituzionalità che non sto ad indicare per ragioni di tempo, ma che verranno presto sollevate nei tribunali di tutta Italia. Noi saremo qui di nuovo a riparlarne. Grazie a Nicola Borzi, grazie a voi. All'avvocato Emilio Grazioso per essere stato con noi. Noi torniamo domani, parleremo di mercati domani. Buona giornata.